In diretta dagli studi di Radio Panorama, Termini Imerese, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda. Ebbene, siamo ritornati in questa seconda puntata qui su Radio Panorama. Accanto a me c'è il buon vecchio Antonio. Ciao Antonio. Per la prima volta dall'inizio della puntata, perché l'altra volta avevo dato solo un accenno, ho detto ci vedremo, e ora invece siamo dall'inizio a rompere le palle insieme. Esatto, per chi non ci conosce, noi insomma facciamo questo programma molto irriverente e approfondimento musicale sulla musica indie rock, un po' di notizie stravaganti e insomma tante interviste, soprattutto oggi. Ma prima diamo i contatti. Allora Antonio, io ti invito a dare i contatti per la prima volta. Sono sempre quelli. Ok, allora, però ricordati che Facebook è cambiato, è L'Onda in Onda. Come perché slash. Prima com'era? Era scusa. Onda in Onda e basta. Allora, potete trovarci su www.facebook.com/L'Onda in Onda, come dice il buon Massaro, oppure su twitter.com/Onda in Onda senza la L, perché noi qui ci capiamo. E poi cos'altro? Numero di telefonino o numero di telefono fisso? Allora, il numero di telefono fisso è 091-78-45-230, oppure sms al 380-7690-204. E dire che sembrava ieri quando i numeri a termine erano tutti 811 814, siamo addirittura a 784. Esatto. Come le targhe, sai, guardi le macchine e capisci quanto tempo è passato. Inoltre in streaming su radiopanorama.info o .eu. Va bene, ma non possiamo iniziare questa puntata se no con la nostra sigla. Yeah. 1, 2, 3, 4. Rieccoci subito in diretta. Bello questo sottofondo, caro regista. Mi è piaciuto molto questo rientro. Anche se mi manca un po' il... Sinceramente non so cosa è successo. Sì, infatti dovrebbe esserci il Creedence Clearwater Water. Però questo è pure bello. È Sean Paul. Sì, è Sean Paul. A me pareva Sean Connery, incredibile. Pazzesco. Allora, qui noi francamente all'acquario abbiamo una visione un po' distorta della realtà. Distorta della realtà, perché abbiamo dietro tante persone, ci siamo andati a trovare qui in studio, quindi li ringraziamo. Sì, io riconosco il piragna sulla destra con la barba malfatta. E poi cosa abbiamo? Là dietro c'è un uomo semi abbronzato con una maglietta indefinibile blu con un disegno. Non vedo bene. Va bene. Comunque va... amici che sono dietro. Amici e guardati. Allora, oggi abbiamo insomma questa puntata molto ricca, perché abbiamo diverse interviste. Ne annunciamo qualcuna. Un youtuber famoso che è Alessio Giannone, che fa dei video nel suo canale Vira Alessio Giannone, giocando un po' su questa, sul virale Vira Alessio. Vira Alessio. Sul quale mi sono informato oggi. Bravo, bravo. Hai visto, sono e lui ha creato questo personaggio che si chiama Pinuccio. Lui chiama, fa le finte chiamate ai potenti della terra. Sì, in base alla notizia del mondo. Esatto, l'ultima è stata la Fornero, alla quale no, ha detto che il lavoro non era un diritto. Tra l'altro oggi non sfiduciata, ha perso la mozione di sfiducia, non è stata votata, non ha raggiunto la maggioranza, quindi la Fornero si è salvata. Invece hai seguito Angela che parlava con Mario poco fa. Sì. Chissà se chiama anche Angela, il buon... No, l'ha chiamata. Il video l'ha chiamata in incognito, però non c'è un come assassino Pinuccio. Nell'acquario? Sì, sarà un parente del piragna? L'ha chiamata in incognito per la... La sconfitta della Germania agli europei, sì, e gli ha fatto un pernacchione siderale. Solo che poi anche l'ha richiamato Pinuccio e gliene ha fatto 4, visto quello che è successo dopo. Però soprattutto il re spagnolo Juan, esatto, Carlos, il buon Juan. Poi abbiamo Gabriele dei Mag, che trasmetteremo oggi sempre per continuare la nostra rassegna indie rock. I Mag o i Mug? Perché I Mag. Poi mag, la nostra solita rassegna, no, dei film brutti. La mia preferita, dico, finora. Marco, sì, che oggi ci porta un grande film, devo dire la non verità. Non diciamolo però. Non diciamolo, lo dirà lui. L'ultima volta era Carnosaur, spero che voi l'abbiate visto, l'abbiate affittato, scaricato. No, io l'ho comprato. Però. Tu l'hai comprato? Sì, detto, sì, io l'ho scaricato e il computer si è spento. Mi ha detto che non c'è più nulla a fare. Ho trovato il Blu-ray. Sì, no, Carnosaur è terrificante. E poi, l'ultimo, ma non il meno importante, Antonino Cardillo, che ha partecipato all'ultimo, diciamo, è stato notizia del giorno, diciamo, perché è smascherato dal Der Spiegel e poi dalla Stampa, il giornale della Stampa italiana. Sì, ma se tu non dici chi è la gente, sembra che se tu stia l'ultimo impazzendo. È il primo, è uno dei primi dei 30 perché l'ultimo è sempre, sì, il primo, no, l'ultimo è uno dei primi, sì, voglio dire, uno dei 30 architetti più famosi al mondo, diciamo, che ha, diciamo, è stato smascherato dal Der Spiegel per non aver costruito nemmeno una casa di quelle che lui ha architettato e fotografato e mandato ai giornali. Erano solo progetti di tutto il mondo, sì. Insomma, quindi è palermitano e lui ha detto che questa era una, diciamo, una campagna culturale mediatica contro il sistema dei media, no? Che non si informano, non verificano le notizie. E, insomma, noi ci ha incuriosito e vogliamo intervistare. Notizie proprio di ieri, l'abbiamo raggiunto al telefono e oggi l'avremo in intervista più tardi, se rimanete in contatto con noi. Ma che dici? Mandiamo il primo pezzo, caro regista, e poi torniamo subito in diretta. Scusa, se questo posso mandarlo io? Ma certo. Perché dal titolo vorrei dedicarlo a mio padre. Certo. Che purtroppo è scomparso 3 settimane fa. E allora ci ascoltiamo Zibba e Alma Libre featuring Tiro Mancino in Una parte di te. Siediti, che tra poco arriverà il vento che mi porterà via e vorrei mi trovasse ben vestito e pronto. Come cambiar Abbiamo ascoltato questo che ritengo essere un gran pezzo, si chiama Una parte di te, è stato sfornato da Zibba con Alma Libre e in più c'è la partecipazione che arricchisce il pezzo di Federico Zampaglione, voce dei Tiro Mancino. Dei Tiro Mancino. Questa canzone, come avete sentito, è un singolo caldo, seducente, che racconta l'amore attraverso gli occhi di un addio. Molto bello assolutamente, pezzo, molto seducente e molto particolare, devo dire, anch'io concordo. E addirittura questo disco da cui è tratta la canzone, Una cura per il freddo è il titolo del disco, ha partecipato anche al premio Tenco, ha vinto il premio come rivelazione dell'anno e ha vinto anche il premio Bindi e il premio L'artista che non c'era, oltre ad altre partecipazioni musicali, insomma. Quindi complimenti, complimenti, un gran singolo. E noi tra l'altro avremo Zibba in intervista fra qualche giorno, le prossime puntate avremo sicuramente Zibba in intervista qui su Radio Panorama. Abbiamo una chiamata in diretta. Cioè, la prima forse. Mettiamo, quando è che non ci chiamava qualcuno? Forse è Gianni Morandi dopo l'altra volta. Sì. Chi lo sa, magari vuole risponderci lui in qualche. Ma è già in linea. Cioè. Bene, allora pronto? Pronto? Sì. Oh ragazzi, ma dove siete? Io sto montando il condizionatore qua. Io credo sembra di... vagamente una voce conoscente. Sì, sembra conoscente. Tra l'altro guarda un po' chi manca. Ah, mele mele mu. Secondo me è Fulì. Ma guardi, mi scusi, caro signore, signor ascoltatore, forse sì, ha sbagliato numero. Ma quale ascoltatore? Io sono qua, scendere dirlo in capo, dove le persone chiamano Balatone. Dirlo in capo, sceso per mettere il condizionatore. Dove siete voi? Noi, guardi, siamo sul letto. Noi siamo al pupo. Sì. Mi veremo pupo. Ma quindi questo è un nuovo personaggio, non sapevo. Cioè, come ti chiami, scusa? Io Peppe mi chiamo. Ah, Peppe. Peppe. Ho capito. Caro Peppe, ma scusami, perché vuoi montare il condizionatore? Non capisco. Dove vuoi montare? Quasi così, Zungulù è per incastagnato, così devo. Zungulù è per incastagnato, lui è per incastagnato. Io... Guardi, caro Peppe, lei ha chiamato Radio Panorama. No, guarda. Allora, io ho chiamato perché ho qua il programma, voi dovete venire a fare il programma. Stiamo dando Peppe sono, non ti ricordi chi sono? Sì, sì. Come mi ti ricordo... chiami? Claudio, sì, così. No, io sono Andrea, Peppe. Andrea. Allora, vai, sali che ti aspetto, sto passando i tubi, sto facendo i buchi. Ma tu vai bene, vai ad aiutarmi. Guarda, io salgo, vado a vedere cosa vuole Peppe. Peppe, aspettami che sto venendo. Dai che ho le pecore che poi devo andare a controllare le pecore. Ah, Peppe, scusami, mi è arrivato un messaggio, ti saluta Ciccio. Beh, comunque sto bene in studio. Sì. E ne parliamo di presenza. Va bene, salutiamo Peppe, grazie. Purtroppo per io non so chi sia Ciccio, però apprezzo il fatto che voi vi capiate. Sì, al col caro Peppe ci capiamo da un po'. Non preoccuparti. Va bene, allora. A proposito di notizie incredibili che stavamo leggendo, vuoi prima questa? No, allora io volevo parlare un po' della generazione persa. No? Noi in questo programma, per chi ci ha ascoltato prima di essere qui su Radio Panorama, noi abbiamo dato sempre notizie che riguardano i giovani persi e la loro voglia di non fare più quello che si fa classicamente per conservare la specie. Sì. E continuano a stupirci, ovviamente, perché la nuova moda del web è ustionarsi con sale e ghiaccio. Cioè, e ghiaccio. Io allora, direi 30 secondi di silenzio. No, 30 secondi di silenzio. 5. Anche no, ma 3. Neanche uno. Parliamo invece di questo po'. Perché l'Huffington Post ci racconta la storia di un ragazzo di 12 anni di Pittsburgh, negli USA, il quale ha subito ustioni di secondo grado a termine di un gioco compiuto con l'aiuto del fratello ed alcuni ragazzi. Cosa è successo praticamente? Il ragazzo è rimasto ferito durante la sfida sale e ghiaccio, diventata famosa grazie a alcuni video di YouTube creano nuovi mostri. Sì, qui abbiamo un esempio del mostro della laguna, come quello trasmesso dal famoso programma da Striscia. Sì. Il gioco è il seguente: i ragazzi premono contro la loro pelle i cubetti di ghiaccio cosparsi di sale fino a quando il dolore dovuto alle bruciature diventa troppo forte per essere sopportato. È uno di quei giochi tipo non fa male, non fa male. Peccato che il dodicenne non è tenuto a sapere che la bravata del genere può portare a conseguenze anche permanenti. Infatti ci vorranno mesi di cure per sperare che il giovane si ristabilisca definitivamente. Il tutto mentre i genitori hanno emesso un apposito comunicato nel quale cercano di mettere in guardia i coetanei del figlio e gli altri adulti riguardo alle conseguenze estreme che può provocare questo gioco. Incredibile. Condannando coloro che diffondono nei social network video e fotografie riguardanti questo atto, il quale nel caso specifico è stato compiuto a scuola. Però io voglio ricordare che invece Andrea, per divertirsi da piccolo, quando giocavamo a calcetto, capitava che vedesse un uccellino con un'ala ferita e si divertisse a finirlo. Almeno non l'aveva visto su Facebook. Appunto. scatola era tutta roba sua, era tutta roba mia, non c'era nulla. No, invece io ho letto, non so Bummo se tu ne hai mai visto qualcosa, che ormai non sono, vanno più di moda i tatuaggi veri e propri, quelli con l'inchiostro, no? Adesso un'altra moda del web è quella di farsi i tatuaggi, e sono nati anche i tatuatori specializzati, ma macabrissima questa cosa, perché i tatuaggi incisi con la cicatrice nella pelle, e poi rimane la cicatrice, come le tribù africane, insomma, molte tribù africane lo fanno, fa molto etnico, ti fai squartare la pelle. Ci sono anche i tatuatori specializzati ormai a tatuare la parte bianca dello, che il medico è lui, non so come si chiama, la parte bianca. La parte bianca, cioè intendi proprio quello che vedi attorno, ma non è possibile, la sclera forse. Sì. No, non sto scherzando. Te lo fai fare tutto nero, e praticamente l'occhio ti diventa interamente nero. Sto provando del dolore. Sì, anch'io. Perché un occhio interamente nero? Tantissimo. Credo sia più pirla di quello che si è tatuato gli occhiali da sole, così quando li leva ce li ha sotto. È alla Ozzy Osbourne, tipo, una cosa del genere. Sì, è giusto, giusto. Va bene, allora ci ascoltiamo il genio con Amore chiama terra, tratto dal suo album Vivere negli anni X. Eccoci tornati in onda dopo l'ascolto de Il Genio, Amore chiama terra. Sono le... Beh, ogni tanto ve lo dire l'orario in diretta, così si fidano. 18 e 53. 53 minuti primi, qui da Termini Imerese, dagli studi di Radio Panorama, nella parte bassa della nostra ridente cittadina. Esatto. Andrea, esatto. Sei andato a mare ultimamente? No, si no, vede. Ho studiato come un pazzo. Anch'io ho dato 3 esami, però sono più abbronzato. No, insomma, siamo uguali. Siamo uguali. Bene, allora, ricordiamo a tutti quanti, ovviamente, i nostri contatti per lo streaming, radiopanorama.info o punto... la nostra messaggistica al 380 76 90 204, e telefono al 091 78 45 230. E salutiamo Rambo da Santo Stefano di Camastra, esatto, che ci ha scritto un messaggio. Un messaggio, vuole musica, musica pompante. In effetti vediamo se riusciamo, perché noi ci occupiamo più di una segna indie rock, caro Rambo. Forse si è distrutto gli esticoli dopo i tiro mancini, perché alle volte può succedere. Quindi ha chiesto musica pompante. Annunciamo che il prossimo pezzo invece sarà dedicato alle vittime del terremoto

Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Politica in apertura di giornale, l'aula della Camera conferma la fiducia a Elsa Fornero bocciando le mozioni presentate da IDV e Lega. I voti a favore sono stati 88, 435 i contrari, 18 gli astenuti. Mi ha creato sofferenza e ora continuerò a lavorare come prima, ha commentato il ministro del lavoro e ha sottolineato: a chi mi accusa voglio dire che non ho mai mentito, non è mia abitudine. Crisi europea, ritrovare l'unità dopo il vertice di Bruxelles che è riuscito a calmare i mercati, a frenare lo spread, ma ha lasciato dietro di sé una scia di divisioni e incomprensioni. E questo è l'obiettivo dell'incontro di oggi tra il premier Mario Monti e la cancelliera tedesca Angela Merkel, descritti dalla stampa internazionale come il vincitore e la grande sconfitta del summit di Bruxelles. Spending review, le carceri sono fuori dettagli, come lo è tutto ciò che è funzionale all'operatività dei tribunali, né gli stipendi degli agenti né quelli dei funzionari della giustizia né le strutture dei tribunali e delle carceri saranno toccate, lo ha detto il ministro della giustizia Paola Severino durante la visita nella casa circondariale di Rieti. In Italia ci sono troppi tribunalini, ha poi aggiunto spiegando che nei prossimi giorni il governo discuterà anche delle sedi distaccate dei tribunali. Cambiamo argomento, è un momento storico, i dati presentati oggi sono una pietra miliare della nostra comprensione della natura, ha detto il direttore generale del CERN al termine del seminario nel quale è stata presentata la scoperta del bosone di Higgs. Il padre della particella di Dio, il fisico Peter Higgs, non è riuscito a trattenere le lacrime, piangeva mentre l'italiana Fabiola Gianotti, responsabile dell'esperimento, finiva di presentare i dati. Dalla sala un applauso interminabile. Ed ora spazio al cinema, sentiamo il servizio di Eleonora Giovinazzo. Un biopic diretto da Oliver Hirschbiegel per riportare in vita Lady Diana. L'arduo compito è affidato a Naomi Watts in questi giorni sul set del film in uscita l'anno prossimo. Dalle prime foto trapelate dalla location londinese delle riprese circolate sul web si vede che la somiglianza è molta e l'attrice britannica si è detta pronta a raccogliere la sfida e a ricoprire un ruolo così delicato. Il film, seconda pellicola dedicata a Lady Di dopo quella tratta dal libro del suo bodyguard Ken Wharf, ruoterà attorno alla storia d'amore tra Diana e il chirurgo Asnat Khan. In chiusura al meteo, le previsioni per domani, giovedì 5 luglio. Al nord molte nubi sulle aree alpine con associati temporali. Al centro persistono condizioni di bel tempo. Al sud tempo stabile, soleggiato. È tutto, le news tornano domani mattina. I gotta find my way back. Back to summer paradise. John Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know, know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. My soul is broken, streets are frozen, I can't stop these feelings melting through, and I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you, baby girl, where real life can wait, it can wait, we're crashing like waves, yeah. We're playing in the sand, me and you. Holding your head, man. Bene, torniamo in diretta. 380-7690204 per la messaggistica, radiopanorama.info per lo streaming web e ovviamente le nostre frequenze 107, 106 e 4, 104 e 10. O su facebook.com/londa in onda per seguire proprio il nostro programma, la nostra pagina Facebook. Esatto. Allora, come vi abbiamo annunciato nell'introduzione, abbiamo con noi Alessio Giannone, che in arte è Pinuccio, il suo personaggio di YouTube. Facciamo raccontare direttamente a lui chi è Pinuccio e perché è diventato così famoso. Allora diamo il benvenuto proprio ad Alessio Giannone. Grazie Alessio, ciao, pronto? Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, sì. Ciao, ti sentiamo benissimo Alessio. Forte e chiaro. Allora, insomma, io ho deciso di chiamarti perché il tuo personaggio veramente mi ha colpito. È una bella metafora della pancia del popolo, possiamo dire. Ma spiegaci tu chi è Pinuccio. Ah, Pinuccio è un faccendiere di mestiere, per come l'ho costruito, insomma, rappresenta un po' l'italiano medio. Sì, ma come... Ovvero quell'italiano che non farà mai crescere il nostro paese. Ascoltami, Alessio, Pinuccio come nasce? Perché io mi sembra di aver letto che tu hai letto le intercettazioni. Sì, Pinuccio nasce nel periodo delle intercettazioni di La Vitola. Sì. Quando ve le ricordate, no? Quelle intercettazioni in cui La Vitola chiedeva a Berlusconi di cambiare la Costituzione. Esatto, sì. Era una cosa, mi ha colpito, cioè vedere come un personaggio X comune potesse avere questa confidenza con il presidente del consiglio, che per quanto fosse Berlusconi, però insomma è il presidente del consiglio, era bellissimo, per quanto fosse Berlusconi, sì. Per quanto fosse Berlusconi, sì. E quindi da lì, insomma, poi ho fatto mente locale, ho pensato che alla fine sia il web che il bar avevano gli stessi toni, si usano gli stessi toni che usava La Vitola, ovvero parlare di una certa, dando del tu alla politica, al politico nelle sue gesta. E quindi non ho fatto altro che trasferire su un personaggio quello che è il linguaggio comune un po' di tutti quanti, che poi il web anche un po' accentuato, infatti basta vedere Facebook e Twitter come la gente si rivolge al politico di turno. Abbiamo visto ieri con Barbato, ad esempio. Sì, vabbè. Ecco, anche come Barbato si è rivolto più che altro alla come... Esatto. No, ma più che altro, Pinuccio cosa fa? Perché l'abbiamo annunciato nell'introduzione, ma mi piaceva che anche tu ne dessi una spiegazione. Cioè, Pinuccio è un personaggio che chiama proprio il telefono il politico e gli dà magari dei consigli, no? Sbeffeggia quello che è la dichiarazione politica. L'ultima, prima ovviamente della Merkel, era la Fornero, no? Che ha detto che il lavoro non è un diritto. Ma naturalmente Pinuccio è come quei personaggi che ci sono in Sicilia, sono stati in Sicilia nel periodo di Pasqua per fare delle serate, diciamo ce ne sono dappertutto, dalla Sicilia al Veneto, quei personaggi che sono intorno alla politica, che forse sono anche più potenti politici perché sono quelli trasversali che fanno affari con tutti, che però hanno anche una loro morale, nel senso che sì, va bene, le cose bisogna dirle, però non bisogna esagerare, perché insomma il primo obiettivo è fare gli affari, quindi insomma non bisogna esagerare nelle dichiarazioni tipo quelle della Fornero, quelle del Papa, cioè bisogna sempre trovare una mediazione per poter continuare a fare gli affari, cioè rendere tutti contenti, così resti sempre lì al tuo posto. Sì, volemo se bene, il popolo va accontentato. Esatto, esatto. Non bisogna esagerare, non bisogna rischiare la rivoluzione, non bisogna continuare a fare i fatti nostri. Non a caso Pinuccio ha una suocera che ha fondato una loggia massonica. Sì, il vero potere è la suocera, questo personaggio occulto che gestisce tutto da dietro, che ti fa pure i panzerotti. Che facevo pure i panzerotti. Senti Pinuccio, ma prima di parlare con noi, con chi eri al telefono? In questo momento stavo parlando con Finn, che secondo me sta male per il caldo e non ha capito bene, ma ha detto che ha lanciato una nuova fondazione che si chiama Agenda, poi adesso sta tentando l'accordo con l'UDC, Vendola si sta arrabbiando con Casini, insomma. E che gli hai detto a Fini? Io a Fini gli ho consigliato le vacanze. Sì, anche proprio... perché voglio dire, ormai conta quanto una carta di pepe, quindi secondo me la pensione l'avrà, si deve mettere da parte, perché rischiano di non rientrare più, quindi è inutile che fa tutto il casino, perché poi può essere un danno per il PD se lui si avvicina al centro. Spesso per mantenere gli equilibri bisogna far saltare qualche testa, è la prima regola della politica. Alessio, allora diciamo, tu sei un attore, ovviamente, no? Quindi sì, ti sei inventato questo personaggio molto bello, devo dire, veramente divertente. Seguitelo sul suo canale YouTube, Vira Alessio Giannone, gioca su questo gioco di parole, scusate, anche la mia tautologia, no? È bello. Sì, aspetta, mi segno Andrea, ha detto tautologia. Ora 19:19. Virale Alessio Giannone. Parli meglio del tuo sindaco, eh? Sì, sì. Perché parli? Scusa, ma tu conosci il mio sindaco? Eccomè, lo conosco come quel buzzurro di Leluca Orlando. Ah, no, ma noi non siamo esattamente... Noi siamo della provincia. Siamo i termini merese. Proprio noi della provincia. Ah, però sì, Leluca... No. Ma tu ci hai parlato con Leluca? Io, Leluca, sono venuto in campagna elettorale. Ho detto, guardi, se vuoi che ti do una mano, devi chiedere scusa per quello che hai detto a Falcone. Lui ha detto no e allora non gli ho dato una mano. Ah, hai fatto benissimo. Vabbè. Ma ho visto invece che hai partecipato al congresso della CGIL. Due palle. Due paute, queste quelli di sinistra, due coglioni che se devono fare quelli tristi, ma no, cioè la sinistra non sa più ridere, ma poi si piange, poi si vestono male, non fare vedere che si vestono male. Sì, la Camusso sempre con sta veste, no, da vecchio. La Bindi che continuano a affermare di essere maschio, è uno schifo, veramente. Devono essere brutte per statuto. Sì, esatto, proprio primo articolo dello statuto della sinistra italiana, dovete essere cesse. Se c'è una buona, secondo me le stesse donne di sinistra la fanno fuori, sì, no? Questa qua, il sospetto che sia di destra. No, infatti la Carfagna non poteva mai stare a sinistra, cioè proprio... No, bisogna avere dei criteri ben precisi, innanzitutto bisogna essere brutti, poi bisogna essere vestite male, poi quasi sempre tristi, cioè mai ridere, cioè si può ridere, però deve essere un sorriso, non può essere una risata bella, no, bisogna essere semitristi. E poi soprattutto bisogna sempre stesse cose, che il libro è letto, che il film hai visto, non si può ascoltare il neomelodico napoletano a sinistra. Attenzione col neomelodico napoletano, che oggi non è stato il cantante della Camorra. Infatti mo devo andare a dargli una mano. Infatti chiamalo, vedi come sta, magari insomma riesce a tirarlo su. Va bene, allora Alessio, noi ti ringraziamo e invito di nuovo tutti a seguire il canale di Alessio, Vira Alessio Giannone su YouTube, è veramente simpaticissimo. Ti ringraziamo per essere stato con noi, mi raccomando chiama qualcuno dopo, insomma facci sapere com'è andata. Appena sbarco in Sicilia vi faccio sapere. Va bene. Ho degli affari pure là. Va bene. Grazie Alessio, ti ringraziamo, ciao. E ci ascoltiamo adesso un pezzo di Usher, Scream. Usher, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body, I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Getting drunk on the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. And I ain't trying. e rientriamo in diretta, sempre qui dall'Onda in Onda. Questo era pompante, questo pompante. Questa volta Rambo sì, sarà contento. Io anch'io in questa posizione in cui conduco sono contento. È la gallina prima della cova. Adesso ti aggiustiamo il microfono. Mi sembra, sai che cosa? Sì. Mi sembra i bambini e le materne. Esatto. Che arrivano al tavolino così. Sembra che quello che dice Peppy Mil. Esatto, sì. Oppure nel vasino. Guarda, proprio sono pronto a sedermi sul vasino. Non preoccuparti, Antonio, perché dovrai uscire, perché fra un po', anzi, subito, diciamo, scalpitante qui fuori dallo studio. No. Sì, no. Lui. No. Lui. Per chi non lo conosce, no, lo presentiamo allora. È Tony Scopelliti, un ex medico nutrizionista che è, insomma, è stato cacciato dall'ordine dei medici per aver provocato la morte di un soggetto malato di ipertensione dopo avergli somministrato la ricetta dell'anduia calabrese, molto pepata. Lui quindi da allora gira per le radio d'Italia, ma diciamo è un profeta, sì, un profetizzando, diciamo, sì, è come sponsorizza, se, ma possiamo non dire neanche così. Uno sponsor, lui secondo me vuole espiare saltare, la sua pena, vuole lavare la sua... l'onta, esatto, ma poi ti piace di lavare l'onta, mi piace perché siamo nell'onta, sì, in onta, esatto. Comunque vuole esaltare, diciamo, fino agli altari, portare la cucina calabrese nel mondo, e lui insomma dà delle ricette che, diciamo, non sono proprio per tutti, no, e non sono neanche facili da seguire, quindi mi raccomando, prendete carta e penna perché... e soprattutto orecchio allenato, perché lui è molto veloce, sì, lui è molto veloce, quindi è molto calabrese anche, quindi non sì, si capisce sì, tutto sì, insomma è un personaggio veramente complesso per chi lo ascolta per la prima volta, quindi mi raccomando, per le ricette tipiche calabrese, carta e penna, perché sta per arrivare qui con noi in studio Tony Scopelliti. Laudato sia lo santo sacramento, benvenuto Tony Scopelliti. Io, a dire verità, non ho parole, perché mai sentuto una trendella che un lender kiss, ma tu ne la pescata. No. Adesso sì, adesso sì, mi sento, ragazzi, adesso mi sento veramente io, e vai. Buongiorno, Tony Scopelliti. Ma veramente, mi è venuta una cosa al cuore, un boccolone. No, non si deve preoccupare. Ma chi è questa cosa tutta lenta? No, questa è una tarantella completa. Ma pareva sigla da famiglia Adams calabrese, la famiglia Adamo. Vabbè, la famiglia Adams. Si chiama famiglia Adamo. Ma come Adamo? Sì. Ma non c'entra niente. Come? Versione calabrese. Ma non è vero. C'è Amano, Richiedo, ammazzato, Randrangheta, che cammina, ancora riceve, vuole giustizia. Si chiama famiglia Adamo. Famiglia Adamo, ok. Sì, ah, la mano proprio tagliata, sì, mozzata, perché cammina, capito? Su Telecalabria Online. Sì, non si preoccupi. Io non mi preoccupo mai. Signor Scopelliti, sì, perché abbiamo poco tempo per dare la sua ricetta. Ah, quanto tempo hai? No, non si preoccupi, lei vada avanti. Io vado, vado. Che ricetta ci porta? Intanto sono contento di tornare a casa dopo almeno qualche mese e mezzo. Sì, è stato in giro, no? Sì, certo, tra Crotone e Caidanzero. Ah, quindi internazionale. Sì, 2000 chilometri, avanti a Nerere mi fece 2000. Certo, per tante volte. Se erano per lungo mi andavo fino in Finlandia. Certo, ma insomma, ha dato altre ricette. Certo, ne ho proprio una nuova roba. Al bacio, tutte per bacio. E va a sparo in un minuto, perché mi sento l'esperazione di farla in un minuto. Prego. Siete pronti con carta e penna? Vedo uno che è pronto per arrere. Si chiama Umor Seddu. Si chiama Umor Seddu. Come? Stu Umor Seddu. E che cos'è? Lo stufato del Neriora. E perché lo chiama Umor Seddu? Perché tu, dopo che adoni il primo Umor Seddu, tu mangi tutto. Ah, capisco. Esatto. Allora, cominciamo. Ci vogliono almeno tri cristiani 100 kg di interiore di maiale, dove te? Quanto? 300 kg. Quindi 100 kg a persona. Ma lei sa fare bene i conti. Poi ci vuole almeno un 3 litri d'olio d'oliva. Certo. Sempre un litro a testa. Aglio, quanto ne potete? Fino a quando non muore vicina per la letosa. Certo. Poi ci vuole almeno una vasca di salsa di pomodoro, dove prima avevi fatto... Esatto, prima avevi fatto un bagno e poi a mangiare. Okay, se dovesse essere imbevuto. Poi ci vuole peperone rosso piccante preso, sì? Che solo posso ripetere se non si perde. E poi tanto sale, sì. Okay. Veniamo alla preparazione. Allora tagliate a pezzetto fegato, il polmone, il cuore, la trippa, il rine, l'occhio, un naso e tutti gli organi che avete pigliato dell'interiore. E soffriggete tutto in un tegame con l'occhio d'oliva e i pezzetti d'occhio.

71, take the bow off. Dipped in Monty yolk with a mullet mohawk. Yeah, with a bright orange hat in the bed underneath that Chevy C. Yeah, but it might go off. Split you like a bowling ball. Spit you in my overalls. Ah. Yeah, home of the gummo. Got a couple folks that'll do it to you for the hundo. And when them elephant feet rumble, that Dixie cup's gonna fall off the console. You don't wanna have a convo and not understand that Bama slang. We like hollering, ain't it? But I come to paint it so you won't get thrown off. Zero 76 90 204 per gli sms, radiopanorama.info per lo streaming e ovviamente facebook.com/londainonda se volete scriverci qualcosa. Amen. No, perché sai, sei entrato direttamente dando il numero, fa un po' strano. Fa un po' strano. Sì, sembrava che sia il tuo numero per scriverlo sempre nei famosi bagni degli autogrill. Ovviamente potete anche richiederci i pezzi, mi ha fatto la nostra amica Jessica che ha scritto Jess che ha scritto sulla pagina dell'Onda in Onda. Vedremo se possiamo, ma glielo potremo passare il pezzo. Ma vedremo ora, vediamo che si può fare. Ora vediamo, attenzione, appena lo controlleremo. Jess, il fatto è che attualmente mentre eravamo fuori onda ci è arrivata una telefonata in diretta qui. No. in regia. Sì, no. Sì, no. Sì, è arrivata. Pazzesco. Io credo che insomma dovremmo metterlo subito in diretta perché è un ospite importante, ci viene a trovare molto spesso, almeno telefonicamente. La redazione, l'ufficio stampa più che altro ha detto insomma che aveva qualcosa di importante, molto sì, importante da sì. dirci, credo anche ma intanto non lo sentiamo riguardo alla Fornero. Sì, no, sì, credo anche riguardo alla fiducia che ha dato alla Fornero, che è stata data oggi alla Fornero. Lui è il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Pronto, presidente. Sento forse un po' d'eco. Presidente, è lei che sta parlando sulle mie parole. Presidente, perché ride al telefono? Cosa le Oggi mi girava di fare l'eco. Oggi le girava di fare l'eco. Presidente, perché si sta scompisciando? No, ma è la tosse. È la tosse? Lei sì. Tossisce così? Ma è la tosse da presidente. È la tosse dell'aria condizionata della Daikin. Sopra. Lei è al colle all'aria condizionata della Daikin? No, già col fatto che sono su un colle, sto più alto e c'è più freddo. Ovviamente tengo più freddo. Poi c'è mia moglie che soffre di caldo, vuole sempre il Daikin. Ah, sua moglie Clio? Sì. Sì, sì. No, che già è dotata, tra l'altro, di aria condizionata, però ne vuole pure un'altra esterna. Ho capito. Presidente, senta, ma oggi è stata una giornata complicata. A parte, insomma, visto che parliamo degli europei, ha ricevuto la nazionale. Sì, abbiamo bevuto champagne, ci siamo ubriacati come le seppie. Ma non è vero, come? Ma non l'ha fatto vedere nessuno questa come cosa. Le seppie. Le seppie. Perché le seppie si ubriacano? Non lo so, so che in Sicilia sì, le seppie si ubriacano. In Sicilia sì, ci si ubriaca. Ma come lei una è di Napoli. Ma io conosco tutto il sud. sud. Ah, lei mi chiede una cosa in calabrese. Mi chiede un piatto calabrese. Un piatto calabrese. Come, ma no. Io ho detto a lei di chiederla a me. Non ah, di mi dica un piatto calabrese. Umur seddu. Ah, ma lei ha ascoltato, quindi era in diretta. Allora lei sembra stupido, in realtà non lo è. No, e non lo sono, presidente. Grazie. Insomma, ha detto dispiace. Da un'istituzione come dispiace lei. Perché, dispiace perché. Cosa dispiace, che dispiace? Perché volevo chiamarla come giullare di corte al conte. Ma come giullare? Ancora avete giullare di corte? Abbiamo... È un retaggio del regno d'Italia. Non parli di retaggio da quando abbiamo perso gli europei. Non voglio sentire tutto quello che ha a che fare con reti, porte. No, no, pallone. No, presidente, era retaggio, no? Cose che parole si che conosce lei. Io non no, come retaggio, lo conoscono tutti, presidente. Scusi, lei conosce la parola retaggio? Lei ha la regia, scusi. Lei la regia conosce la parola retaggio? Non si sa. Retaggio. L'altro amico là dietro sa cosa vuol dire retaggio. Ma come fa a sapere che c'è qualcuno dietro? No, c'è la webcam quella del Quirinale che è in ogni casa degli italiani. Ah, è la io webcam... tengo 56 milioni di telecamere, tutte su ogni italiano. Tutte su ogni italiano? Sì, ma e vedo tutto quello che fa. Violazione della privacy. No, no. Come no? C'è anche un libro, il grande, come si chiama? O grande Le Boschi, che ne so. No, il grande dopo, il grande fratello, credo. Allora è stupido, ha confermato quello che pensavo. No, presidente. Senta, ma mi dica una cosa. Allora, oggi, insomma, per la Repubblica è stata una giornata importante. Molto importante. Sì, sì. C'è stata la sfiducia alla Fornero che non è stata votata, quindi la Fornero ha ricevuto la fiducia e ha detto che ha sofferto molto. Sì, lei sì, insomma, ha pianto di nuovo, ma sì, non lei piange sempre. Ma gli era detto la Fornero questo. No, ha pianto con me al telefono. Ah, con lei alla chiama. Lei imita anche la Fornero. No, ormai me lancio tutto quello che è imitabile, anche che sono scorreggio di Clio. No, presidente. Oh. No, non vogliamo saperlo. È sempre, lei è sempre la prima carica dello Stato. Sì, e lei è la seconda, la moglie, no? No, quello no. È Schifani, la seconda carica dello Stato. Sta dicendo sul serio. Sì, è Schifani. Aspetti, che mi presidente scusi, Schifani è la sua. Cazzo. Dicono che è vero. Eh sì, che è vero, presidente. Ecco, allora, il presidente del Senato lo destituirò in giornata. Ma come? Ma lei non può. No, ma non mi piace. Non ma allora deve sciogliere le camere. Quindi abbiamo uno scoop. Lei scioglierà le camere. Oggi. Ma non lo sapeva prima che Schifani era la seconda carica dello Stato, presidente? No. Come non no? Sapevo neanche che lei era intelligente, si figura un po'. Ah, certo, lo capiamo, presidente. Senta, ma mi dica una cosa. La spending review, no? Ah, mi era venuto l'asma perché era finito l'inno, è ripartito. Ah, no, non si preoccupi. Sì, sì. La spending review, sì. Il governo si sta occupando. Posso dire una parola sulla spending review? Certo, presidente. Ma perché cazzo dobbiamo usare sempre parole straniere quando spending review, revisione della spesa. Ma allora lei conosce l'inglese? Spread, differenziale. Ma perché dobbiamo usare l'inglese quando ci stanno belle parole? Non lo so, presidente, italiane. Quindi lei è per il mantenimento della lingua italiana. Ovviamente. Va bene, sì. Faccio un monitor come fa al solito. Sì, no? Sì, ma anche un monitor se vuole. No, un monitor. Un normale, monitor, presidente. Basta, va bene, okay. Presidente, diciamo, allora, per la spending review, no, sì. La revisione della spesa, secondo lei, lo Stato, sì. Dove dovrebbe tagliare? mi stava partendo nei coglioni, ma lo so. No, pensavo. No, presidente, non faccia come Barbato, lo so. Per favore. Ma sono fatto. No. Ah, Barbato, scusa. Barbato, il deputato. Dove può tagliare? Sì. Negli stipendi al Presidente della Repubblica. Lei si taglia lo sì, stipendio? Sì, me lo taglio. Non ho troppi ma soldi. Questo è uno scoop, è bellissimo. Allora il oggi Presidente della Repubblica... Giorgio Napolitano scioglie le camere e se lo taglia lo stipendio, lo stipendio. Taglia lo ancora stipendio. Clio devo dire che regge. Come a marmitta va ma marmitta. Degli scoop allucinanti sì, oggi sì, veramente. Quindi le dica tutte una allora. vediamo se è stato attento. Allora sciogliamo le camere. Esatto. Anzi, accatta l'accendino. Sciogliamo le camere. Come Alessa? Ma lei lo conosce? Alessa, poi Alessa, ma hai chiamato Alessa? Alessa ha detto il boom dalla ragazza d'Antonio. È bellissimo l'altro. Che il Presidente della Repubblica... A proposito, Antonio do cazzo sta? Presidente, è uscito fuori, non lo so, credo. Non si vabbè, sa. Riassumiamo. Primo. Sciogliamo le camere. Due. Si taglia lo stipendio. E tre. E Clio. Sappiamo. Basta Clio. Va bene, allora, Presidente, noi le ringraziamo per questo intervento. Mi raccomando, vada subito a sciogliere le camere. Mando subito il comunicato all'ANSA. Clio, noi ci ascoltiamo. Andiamo che si sciogliono. Sì, va bene, salutiamo. Veloce. Salutiamo il Presidente Giorgio Napolitano che avvertiva sua moglie, avete sentito. Lanciamo il prossimo pezzo, ci rivediamo fra poco. Oh, check, it's all right. Said a couple things that they don't like. On the flip side, we're so nice. So nice. Say money's the fruit of all evil. Overlift shoulder, can't hear the devil's voice. And getting dough is far from a second choice. Collect coins, even though our pepper knows. No grand, no shine on a paper chase. Money stacks like the old school Nokia. Cause of the way I like to change the face. Jet set, I don't play with paper planes. We're gonna get it, yeah, we're gonna get it. Don't get gas to fire boiling out. Put essence to my name and secure the mouse. And don't think I'm a fool when you speak to me. Only little boys run when they see police. You see me, I'm on a big man ting. Stay humble and live my life, so I don't care what whip man's saying. Oh, check, check, check, it's alright. Said a couple things that they don't like. On the flip, flip side, we're so nice. So nice, we're so nice. So nice, we're so nice. So nice, we're so nice. So nice, we're so nice. We're no different, but these dudes keep fooling them. I'm maneuvering, taking position. They don't think that they ruling it. A bad kid never follow rules and shit. Reacting if they get loose with a lip. Assassin killer when I move on a tip. Usually I'm cool, but a green when I flip. Damn, let's tone it. I keep it nice if they want it. Calm style is mine, I own it. Girls love, so I part legs like Moses. I'm cool, not trying to be the coldest. I'm already ice. A few new, but a lot didn't know that I'm already nice. Oh, check, check, check, it's alright. Said a couple things that they don't like. On the flip, flip side, we're so nice. So nice, we're so nice. So nice, we're so nice. So nice, we're so nice. So nice, we're so nice. We're easy, oh, oh, oh. So well, grind my dance hell in the speed, tackle that chisel, the beat with the carnival bell. Bars it falling and jam intel. Couldn't name Gary in a business. Try stop my food, I kick your ass like the Neville. Fantasy sit down, one up on my name. Cause your free time with done sim card digital. HB pencil, shut them down like software for the Dell. Them men are washed without the infrared. When we see them, me fish out about Denzel. Fire go burn, not like the nickel. Caper and sizzler, same kind of furnace. Shotproof could never benefit shell. Sky blue turn green, no need to control. Oh, check, check, check, it's alright. Said a couple things that they don't like. Rientriamo subito in diretta, sempre qui dagli studi di Termini Imperativi, Radio Panorama. Sì, sì, dopo aver sentito il presidente Napolitano e Tony Scopelliti. Esatto, so. Esatto. Io so che dovremmo avere, insomma, un altro ospite che, insomma, in questa radio non è mai venuto e sì, vorrebbe parlare. Io vado a chiamarlo. Proprio lui. Ma oggi è il giorno degli scupponi, dei grandi ritorni. Scupponi. E poi annunciamo, ricordiamo per chi si è collegato soltanto da poco, che abbiamo un'intervista, due interviste con due famosi artisti, che sono appunto Marco Gabriele dei Mag e Antonino Cardillo, che ha fatto, insomma, abbastanza che è diventato spagnolo Cardillo. Cardillo, scusami, c'è Cardillo. Sì, sì. E credo che abbiamo proprio in diretta in questo momento Gabriele dei Mag, e noi lo accogliamo con un grande benvenuto. Ciao Gabriele. Ciao Gabriele. Ciao, ciao a tutti. Ciao, allora, insomma, noi abbiamo ascoltato il tuo CD, Lost in Transmission, dei Mag. Senza in, Lost Transmission. Lost Transmission, molto vabbè, bello. No, perché io ho fatto un Lost in Translation. Sì, esatto, sì, il film. Sì. È un classico. Ho fatto un mashup. Ascoltami, Gabriele, ma spiegaci un attimo come nascono i Mag e come nasce o Mug, scusami, perché francamente. Ma guarda, un po' come volete. Ah, ok. Anche MUG. Sì, esatto, perché Mug sta per Medium Underground, però molti ci chiamano Mag, altri Mug, altri MUG, altri Medium Undergroup, quindi un po' libera come... È un po' tipo fate come ve pare, volemose bene, va. Esattamente. Esatto. Esattamente. Ascoltami, allora, come nascono i Mag o i Fate come ve pare e il Lost Transmission, che tra l'altro, diciamolo, è un... io l'ho ascoltato, un bellissimo album, tutto strumentale. Assolutamente, tutto strumentale. I Mug sono composti da quattro persone. Io che suono la batteria e mi occupo della parte dell'elettronica, poi abbiamo Gabriele Trodella che è una delle due chitarre, l'altra chitarra è Ilenia Volpe e al basso c'è Fabio Mele. I Mug nascono un po' di anni fa, nel 2007, ma con questa formazione, diciamo, è attiva dal 2010-2011, quindi da poco tempo, insomma, rispetto alla vera nascita del gruppo. E l'idea era quella di mettere in piedi una situazione completamente strumentale, senza voce. E che è già un bel azzardo, cioè una bella scommessa, non è che vada poi... È stata una bella scommessa. È una sperimentazione, possiamo dire. Ora. Siccome, scusa, che non ho... È una sperimentazione, possiamo dire. Assolutamente, diciamo di sì, perché abbiamo voluto fare questa prova, cioè metterci alla prova e mettere alla prova anche un po' tutti quanti quelli che ci ascoltano, perché ci rendiamo conto che magari un disco di 10 tracce che dura 45 minuti, 46 minuti, senza voce, senza testo, potrebbe sembrare un po' sperimentale, anche se poi a tutti gli effetti, cioè per noi non lo è, perché fa parte proprio del nostro DNA, quindi cioè rientra nei nostri standard, nei nostri canoni. Guarda, però io abbiamo visto che il mercato, cioè, potrebbe essere un po' complicato. Io ho ascoltato il disco, le canzoni, così come la copertina, che mi hanno evocato un po' il cyberpunk, non so se hai presente il tema del cyberpunk romanzesco e anche nei film, e devo dirti che mi è sembrato veramente un bellissimo esperimento quello che avete fatto, nonostante appunto sì, 10 tracce ovviamente magari per il mercato del discografico siano 10 tracce senza voce, siano un po' complesse da far comprendere al pubblico, ma devo dire che il disco è molto bello, soprattutto mi è piaciuta la traccia Y. Insomma, che è veramente molto bella, e la faremo ascoltare subito dopo l'intervista. Ti direi, anzi, scusaci per il poco tempo che possiamo dedicarti, perché abbiamo dei tempi veramente ristretti. Immagino. Ti faccio, guarda, l'ultima domanda, che è la più classica delle domande che si possono fare in una radio: i progetti per il futuro dei Moog. Il progetto attuale è quello di suonare il più possibile, perché la cosa che poi piace più di tutti noi è quella di andare live e riprodurre fedelmente quello che poi si sente sul disco, perché una delle peculiarità è che tutto quello che c'è sul disco non è sovrainciso, nel senso che ognuno ha fatto le sue tracce, le sue registrazioni, ma non ci sono sovraincisioni, quindi c'è una linea di batteria, una linea di chitarra di Lenia, una linea di chitarra di Gabriele e una linea di basso. E questo lo voglio sottolineare, perché magari sentendolo uno può sentire suoni, sovrapposizioni, eccetera, eccetera, quando invece comunque live riusciamo a riprodurre fedelmente quello che abbiamo... Ho visto anche qualche vostro live. Ah, bene. Ho visto qualche vostro live online. Senti, una cosa, ho mentito, non era l'ultima domanda. ho visto che la vostra etichetta è La Grande Onda, che tra l'altro è formata da Piotta. Parlando un attimo delle etichette indipendenti, visto che ormai noi in questo programma ci occupiamo molto stiamo facendo questa rassegna indie rock, l'indie rock in Italia sembra che stia cambiando, me lo confermi? Ma guarda, io ti dico, abbiamo una visione un po' ristretta, nel senso, perché guardiamo il nostro piccolo orticello, tra virgolette, insieme a appunto Tommaso, il Piotta, che ci ha dato questa opportunità perché si è innamorato della situazione, quindi mi direbbe da dire che sta cambiando qualcosa, però ho una visione magari un po' di parte, però se ci mettiamo anche noi in questa, diciamo, tematica, sì, cioè, ti direi forse sta finalmente cambiando qualcosa, però ora non voglio sembrare un po' sfortunato, perché cioè, siccome hanno fatto il disco dei Moog, allora sta cambiando qualcosa, però effettivamente uscire con La Grande Onda di Tommaso Piotta con un disco completamente strumentale, beh, qualcosa effettivamente forse si sta smuovendo. Va bene, noi ti ringraziamo, allora ti auguriamo tanta fortuna, ci ascoltiamo Y dell'album Lost Transmission dei Mac. come continuate a sentire in sottofondo, anzi no, il sottofondo è andato, era Upsilon dei Mag, un gran pezzo, devo dire, bella, non... l'ho conosciuto adesso, atmosfere molto interessanti. Bravi Mag. Bravi. Bel esperimento, direi, esatto, che insomma va approfondito anche questo aspetto del mercato dell'indie rock, che mi ha colpito, devo dire, ho sentito molti pezzi del mercato indie rock, tutti con la voce, magari qualcuno si sforzava un po' di creare un testo che fosse enigmatico, criptico, no? sul significato del testo sofferente di ribellione. Esatto, invece loro hanno fatto questo bel esperimento concentrato tutto sulla musica, che a volte è l'aspetto che non viene mai considerato in una canzone indie rock, ci si concentra di più sul significato del testo. Invece questo esperimento mi è piaciuto molto, quindi invito a comprare Lost Transmission dei Mag. Esatto. Poi l'etichetta è come la nostra sigla di apertura. Ma infatti, la grande onda. Dire, la cosa bella è che la loro etichetta è la nostra sigla di apertura. Esatto, abbiamo questo trade union, se mi passi le parole. Molto, molto bella l'etichetta anche di Tommaso Piotta, perché sta mettendo insieme, come anche l'etichetta della Tempesta, molti gruppi indie rock che altrimenti non avrebbero avuto modo di espressione. Credo che anche Zurli faccia parte dei Mag. Se non sbaglio, il Mag Zurli, il famoso Mag Zurli che faceva. Sì, famosissimo. Anche Brumma lo sa. Anche sì, ovvio. Ti saluta la mia ragazza, l'unica che ti chiama Brumma. È l'unica che tanto dice se ci assomigliamo. Sì, tra l'altro, non si sa cosa ha visto, però va bene, allora ci ascoltiamo un altro pezzo e poi ci rivediamo qui subito dopo la pubblicità. Rimanete con noi sempre su Radio Panorama. That is complicated. I don't wanna know you. We don't have to talk about it. Let us both discover there is nothing better than just lying here together, staring at the bedroom window. I just wanna love her. Could you be the person for me? Nothing sentimental. I want you to satisfy me. I just want a lover.

solo i cavalli ci possono trovare stanotte. Sì. Only the horses can find us tonight. E non è proprio una bella immagine. Vabbè, gli Scissor Sisters, sai, sono famosi per essere molto eterosessuali, quindi magari aspettano il cavallino da dietro. Esatto. Studente allora... si suicida dopo essere stato bocciato. Ma la leggiamo dopo, perché abbiamo con noi in diretta... Perfetto, resta così nell'etere. È in suspense, questo esatto, è suspense. Esatto, sì, è suspense. Abbiamo con noi in diretta Marco di Film Brutti. Ciao Marco! Ciao grandissimi! Ciao! Come stai? Tutto ok, spero anche voi sia tutto ok. Sì. A parte che ci sentiamo, abbiamo peccato, dobbiamo punirci, Marco. Ma io sono nato per questo, insomma, ormai ho scoperto la via dell'autopunizione e non ho intenzione di tornare indietro. Allora, quanti di voi vogliono autopunirsi oggi per qualcosa che hanno fatto di male? Bene, Marco vi spiegherà come, vedendo un film. Che film ci proponi oggi, Marco? Un capolavoro assoluto del genere horror made in Italy, Il Bosco 1. Come? Il Bosco 1. Perché hanno fatto anche il 2 e il 3 oppure ci speravano? No, perché il film è stato un fallimento totale, quindi è rimasto solo il primo episodio. mal concluso. Bellissimo. Allora, e raccontaci un po' la trama, i personaggi caratterizzanti l'opera. Allora, ci sono praticamente tre personaggi. Una coppietta che diciamo è in viaggio... sulle Alpi, che incontra una ragazza che sostiene di essere stata aggredita da una misteriosa entità all'interno di un cimitero. E praticamente questa ragazza è in realtà una strega che attira i maschi nella sua magione per poi ucciderli e cibarsi del loro sangue grazie alla sua arma segreta, che è una manona pensile blu che esce in mezzo alle gambe. Da qui il titolo in inglese, che è Evil Clutch, cioè la stretta mortale. No, dai, ma è incredibile. Ma scusami, è Made in Italy, ma era uscito col titolo anche in inglese? Negli Stati Uniti è uscito, è uscito direct to video con il titolo Evil Clutch, per scimmiottare un po' Evil Dead, no? Per cavalcare un po' il successo della casa. È l'autopunizione che invece da noi passa in America. Esattamente, bellissimo. Un'autopunizione internazionale. È il capolavoro assoluto di Andrea Marfori, un film del 1988 in cui recita anche Coralina Cataldi Tassoni, che forse qualcuno si ricorderà anche alle prese con un film di Dario Argento, che per tutto il film recita autodoppiandosi con un finto accento inglese, che è in assoluto la cosa più divertente del film, veramente da gustare, soprattutto nella scena finale in cui lei, una volta che è riuscita a fuggire alle grinfie della strega, che è morente, non si sa perché, senza nessun motivo. Non c'è nella trama la strega morente, spunta così. No, alla fine la troviamo morente, ma non si capisce perché. Perché c'è una misteriosa presenza che si vede per tutto il film. Sai quando la telecamera si muove, si sente fare wash. Sì. E si suppone che sia questa entità ancora più maligna ad aver fatto fuori la strega, ma non è dato sapere. È la sceneggiatura un po' alla cazzo, La sceneggiatura un po', vai, facciamo così, adesso dai, facciamo quest'altra scena. Che poi a un certo punto compare anche un misterioso zombie fango, ma c'erano delle cose veramente assurde in questo film, proprio del tutto ingiustificabili su un piano razionale, quindi la sua punizione è molto... di livello molto alto. Fa male vederlo, Va bene, allora scaricatelo o affittatelo Il Bosco 1, giusto Marco? Il Bosco, vorrei sottolineare che nel retro della VHS si afferma che Andrea Marfori è il degno erede di Frankenstein e Dario Argento. Che è una cosa veramente micidiale. Va bene, allora affittatelo nelle peggiori videoteche, Il Bosco 1, o scaricatelo se volete, tanto mi sa che problemi di copyright per l'autopunizione non ce ne siano. Penso sia disponibile anche su YouTube a pezzi. Allora andate su YouTube a vederlo subito. Stasera lo farò. Su YouTube c'è Grazie Padre Pio, che noi ricordiamo sempre di vedere, 40 minuti di autopunizione pura, con Gigione e Gio Donatello, vero sì. Marco? Assolutamente. assolutamente, è un must. Oh, quello è un must, io ormai ne parlo la sera con gli amici, non sto scherzando. Marco, per il prossimo film dacci un'anticipazione, quale vorresti portare qui alla nostra conoscenza? Vorrei entrare nel campo action presentando quello che è il capolavoro di Chuck Norris, cioè Invasion USA. Allora mi raccomando, per la prossima puntata sintonizzati sempre su Radio Panorama con l'Onda in Onda per quest'altro capolavoro, film bruttesco autopunitivo. Marco, noi ti ringraziamo, scusaci per il pochissimo tempo di oggi, ci rivediamo ovviamente con Marco mercoledì prossimo. E rimanete con noi, scaricatevi i film, ci ascoltiamo il prossimo pezzo e ci rivediamo subito dopo. Come annunciato all'inizio di questa puntata dell'Onda in Onda, oggi pregna di interviste, solitamente ne facciamo veramente molto meno. Mi piace la parola pregna. Pregna, ti Se piace? Poi puoi anche impregnare. No, non ti impregno. Oggi abbiamo, insomma, con noi in intervista una persona che, diciamo, ha fatto un suo, non diciamo scandalo, no, ha fatto notizia. Diciamo, ha fatto notizia. Sì, ha voluto agire sul sociale, ha voluto dare una dimostrazione sociale di qualcosa che adesso ci spiegherà bene. Esatto, lui è Antonino Cardillo, tra l'altro è di origine palermitane, è stato inserito tra i 30 architetti più importanti, giovani architetti più importanti del mondo, da Wallpaper, sì, che diciamo che è la Bibbia dell'architettura e del design, come sì, scrive la stampa, il giornale La Stampa. Infatti lui è qui in diretta con noi e vogliamo scoprire insieme a lui cosa è successo. Ciao Antonino. Ciao, buona serata. Buonasera. Ciao. Allora, cosa è successo, Antonino? Diciamolo. Tu sei stato inserito appunto da Wallpaper in questa rivista, è diventato molto famoso come architetto, ma diciamo che ti ha messo in difficoltà il Der Spiegel in un'intervista. Ora magari ci darei qualche chiarimento tu, perché delle case che hai disegnato e hai mandato a queste riviste, nessuna di queste, almeno da quel che scrive i giornali, il 90% di queste non è costruita. Ma fondamentalmente la mia operazione intanto parte, prima la rivista Der Spiegel si è soprattutto soffermata sull'aspetto della manipolazione. In realtà la mia ricerca è finalizzata in questi ultimi, in quest'ultimo decennio ha cercato di trovare una nuova strada per l'architettura. Il problema oggi è trovare le vie, diciamo, in qualche modo autonome per comunicare tutto questo, perché purtroppo per un giovane architetto è molto difficile trovare dei clienti e quindi sviluppare delle prove di architettura e riuscire anche a pubblicarle, considerato che le riviste di architettura pubblicano solo progetti realizzati, è un punto di grande criticità. La mia operazione è partita da questa considerazione. Cioè, da una parte avevo una grande urgenza di comunicare la mia ricerca, che ancora tutt'oggi continuo a portare avanti, ma nello stesso tempo l'impossibilità di comunicarla senza avere la possibilità di costruire queste opere di architettura. Allora, noi, Antonino, abbiamo visto le tue opere sul tuo sito e devo dirti che sono veramente belle, bellissime opere. A parte che sembrano davvero realizzate, non so, sì, hai usato 45 ore di rendering per renderle così. Così in realtà non è tanto il tempo, è proprio non è tanto il tempo di rendering di per sé, ma è proprio il lavoro quasi artistico che sta dietro, che poi alla fine per me non è stato molto diverso da dipingere un quadro, perché poi per arrivare a quella resa luminosa i tentativi sono stati veramente tantissimi. Allora io volevo chiederti più che altro, sei stato inserito appunto tra i 30 più importanti giovani architetti del mondo da Wallpaper, quindi come facevi a non riuscire a trovare dei committenti poi per queste tue opere? Intanto la mia ricerca è una ricerca molto quasi d'avanguardia, quindi è molto sperimentale, è anche difficile che dei clienti così convenzionali in qualche modo possano trovare un'appetibilità nei confronti di quello che faccio. Diciamo che è una cosa molto complessa. Quando si fa sperimentazione è chiaro che si va più avanti rispetto a quello che richiede il mercato, quindi diciamo il mercato in qualche modo ha difficoltà a recepire immediatamente la nuova direzione. Però è interessante il fatto che comunque le riviste abbiano in qualche modo compreso l'importanza di quello che stavo facendo e mi hanno dato una risonanza. Il punto è stato quello che per far in modo che queste opere venissero pubblicate era necessario far credere che fossero costruite, perché era l'unica strategia mediatica per arrivare al pubblico, perché altrimenti la mia ricerca sarebbe rimasta dentro il mio hard disk e non sarebbe stata comunicata. Ascolta Antonino. Sì, prego. No, se vuoi continua. Io volevo chiederti, come mi sa che ci siamo già sentiti al telefono, io te l'avevo proposto, ma scusami, non è un po' una paraculata, nel senso, tu hai detto, ok, io faccio queste opere e le spaccio ai giornali, passami il termine, come opere costruite, loro ci credono e le pubblicano. Poi in qualche modo ti beccano e dici, ok, no, è stata una cosa per dimostrare che i media abboccano a tutto, almeno questo è quello che scrive il giornale La Stampa, a parte che poi ti ha demolito dicendo anche che non hai mai insegnato al Chelsea College of Art and Design di Londra, e tu mi hai detto invece che questo è vero. Se vuoi precisa realtà, questo punto, così chiariamo una volta per tutte anche questo punto. Sì, esatto. Ti ringrazio per questa domanda. In realtà il giornale riporta l'articolo tedesco su Der Spiegel che contiene molte inesattezze, tra cui appunto questo aspetto sull'insegnamento al Chelsea College of Design di Londra, che in realtà io ho fatto delle lezioni, peraltro anche con la professoressa Anna Raugio, e che peraltro la giornalista non mi ha mai chiesto nulla, quindi in maniera abbastanza incredibile ha messo questa illazione senza che poi ha verificato, neanche mi ha chiesto dei riferimenti, perché se lei mi avesse domandato io avrei dato il contatto email della professoressa che mi ha invitato. Quindi. Perfetto. Comunque, penso che le spieghe voleva fare più un'operazione di gossip. Comunque non mi preoccupo, perché comunque l'importante è comunque che se ne parli, anche se poi i toni di Der Spiegel sono al limite della diffamazione per alcuni aspetti, però non importa. Cioè, l'importante è che se ne parli. L'importante, sì, soprattutto la cosa che mi rende molto sereno, come ho ripetuto al giornalista della stampa, è che comunque chi poi va a vedere la mia ricerca e chi legge le mie interviste capisce che non è solo un discorso, cioè l'operazione di manipolazione dei media, perché di questo si tratta, che io ho portato avanti, è stata solo finalizzata a far conoscere i miei contenuti culturali. E il fine è solo culturale, perché ripeto, la mia ricerca non esita, ma è un arricchimento personale, una ricerca molto complessa e molto d'avanguardia, non è, È chiaro che il mio obiettivo è arrivare a una fascia di clientela più sofisticata che può comprendere quello che sto facendo, e per fare questo comunque ho bisogno di rivolgermi a un pubblico molto vasto e sperare che all'interno di questo pubblico vasto l'intelligenza molto rara purtroppo nella società contemporanea, quel poco che c'è rimasto, possa comprendere la mia direzione, in qualche modo anche esitare alcuni incarichi. In parte questo è avvenuto con Sergio Rossi o per esempio con l'installazione che ho fatto al Victoria Albert Museum, però è un processo che è appena iniziato, perché in realtà poi alla fine i risultati di questa operazione... Vabbè, il casino è scoppiato adesso. Ultimi anni, cioè. Io sono dell'idea, scusami se intervengo adesso, sono l'altro conduttore Antonio, che se c'è della sostanza, se c'è ciccia, trippa, come si usa dire, esce fuori. Cioè, che tu abbia usato questo metodo, come definisci tu stesso, un po' donchisciottesco o metodi tradizionali, io sono per ben venga. Cioè, sai, scusami se ti interrompo, in realtà oggi il metodo tradizionale ormai non esiste più. Io sono profondamente convinto che proprio perché la nostra generazione in qualche modo ha vissuto decenni di manipolazione mediatica, siamo stati noi stessi manipolati dagli anni 80 fino ad oggi, e quindi il problema è che oggi contenuti rivoluzionari non si comunicano attraverso i centri, occupando i teatri o comunque attraverso i centri sociali, si comunicano lavorando all'interno del sistema. Il sistema manipola, tu devi manipolare il sistema. Cioè, solo comprendendo queste logiche interne, quindi in qualche modo operando attraverso queste logiche che sono ovviamente perverse, si può in qualche modo interferire e orientare e riorientare il sistema. E alla fine l'operazione che io ho fatto è stato paradossalmente anche uno studio, un'analisi di come la televisione porta avanti ovviamente certi disvalori. Il punto è che io sono convinto che attraverso questo tipo di manipolazione io sto cercando di, naturalmente nel mio campo, quindi nell'architettura, di presentare un orientamento culturale diverso, che non sia omologato e che sia in qualche modo più radicato ad una visione in qualche modo identitaria riferita alla storia dell'architettura, e che in qualche modo dia una visione più autonoma rispetto alla cultura angloamericana. Va bene. Ecco, per fare questo devi comunque sporcarti le mani e lavorare all'interno di questo sistema, altrimenti non serve a niente fare ricerca e poi non comunicarla, perché non incidi nella realtà. Va bene, allora diciamo che sei stato un pochettino il Franca Bagnale italiano per l'architettura, almeno. Hai preso in giro i media, adesso ti cercheranno, perché effettivamente le tue opere sono veramente belle, e invito a cercarle. Grazie. Le opere di Antonino Cardillo, e soprattutto di Palermo, quindi e con quindi, il campanilismo sì, noi, forza, insomma, Palermo, forza Palermo, vivo Panica Meusa e viva Cardillo. Viva Cardillo. Viva Cardillo. Va bene Antonino, ti ringrazio per questa intervista. Grazie. Ci sentiamo grazie un pezzo, ci rivediamo qui per la chiusura. Grazie. E poi rimanete sempre qui su un Radio Panorama. Mommy, they call me names, they wouldn't let me play. I'd run home, sit and cry almost every day. Hey Jessica, you look like an alien. With green skin, you don't fit in this playpen. Oh, they pulled my hair, they took away my chair. I keep it in and pretend that I didn't care. Hey Jessica, you're so funny. You've got teeth just like Bugs Bunny. Oh, so you're E siamo tornati in diretta dopo l'ascolto di Who's Love Now di Jessie J. Mamma mia, che pezzo. Ehi, cazzo. E che voce californiana. Eh sì, oggi non l'avevamo sentita ancora. Allora, il DJ oggi... californiano. Sì. Old Duda Day. Old Duda Day. Oggi siamo passati un po' da Mario Biondi, siamo arrivati, cioè sì, Mario oggi Biondi proprio fa... tutto. Oggi atmosfera abbiamo... ambient da ti aspetto sulla statale 155 e poi ti dico che facciamo. No, no. Sì. Oggi abbiamo avuto 86 interviste, tra poco avremo anche l'intervista con Ninuzzo Mulunaru per completare la giornata che abbiamo intervistato veramente. Ma Ninuzzo chiunque è una persona molto importante. Ma noi lo avremo nel... Ninuzzo sì. Mulunaru. Tra l'altro loro non sanno, perché lo sai solo tu. Ma loro chi? Loro chi ci ascolta? Ah, loro. Come i complottisti dicono chi l'ha detto? Loro. L'etere non sa che mercoledì prossimo alle 18.30 qui su radiopanorama.info, no, radiopanorama e basta, però per ascoltarci.info, avremo un personaggio, un amico nuovo che ci verrà a trovare, un tenore. Sì, che non è un Mulunaru. Non è un Mulunaru, quello magari verrà dopo Ninuzzo, è un tenore che ama rispondere cantando lirico. Ah, quindi lo intervisteremo e lui risponderà cantando. Ah, sarà una cosa curiosa. Una novità. Non diciamo il nome perché lui non ce l'ha ancora detto. Abbiamo il numero. Va bene, allora siamo ai saluti. Vi ringraziamo per essere stati con noi. La mia lingua si è infilata nel... No, no, tu volevi dire proprio vi ringrazio. Cioè tu ti sei dimenticato che sei qui insieme con a me e Brumma. Sì. Comunque, se durante la settimana volete scriverci, la pagina Facebook è facebook.com/londainonda, ovviamente senza l'apostrofo. O twitter.com/ondainonda. Esatto. Ovviamente rimanete sempre qui collegati su Radio Panorama. Esatto, per ascoltare tanti bei programmi, ma il migliore ovviamente è il nostro. Quindi sì, ci vediamo mercoledì prossimo alle 18.30. Ciao da me, Brumma e Andrea Massaro. Ciao. Ciao. Spot.